per evitare che il quadro peggiori. Nel breve termine devono stabilizzare il sistema finanziario, immettendo liquidità, al più presto, nelle banche più deboli. Circa la Grecia, è nell'interesse di tutti che rimanga nella zona euro e il Paese deve rispettare degli impegni sulle riforme. Riconosciamo i sacrifici compiuti dai greci e i leader europei sanno che devono sostenerli se decidono di restare nella zona euro. Ma anche i greci devono riconoscere che le loro sofferenze sarebbero maggiori se uscissero dall'euro. Nel lungo termine, il risanamento dei conti pubblici deve accompagnarsi alla crescita dell'economia e dell'occupazione. È dunque positivo che leader come Angela Merkel e François Hollande stiano lavorando sulla crescita, oltre che sui conti pubblici. Le soluzioni ai problemi sono dure, ma esistono. Le decisioni sono difficili, ma l'Europa è capace di prenderle e può contare sul sostegno americano. E in merito a queste dichiarazioni di Obama, Sebastiano Barisoni ha raccolto il commento dell'economista Alberto Alesina. Sentiamo. Obama è molto preoccupato dell'Europa sia per motivi seri, come siamo preoccupati tutti, ma anche perché è un anno elettorale per lui, quindi una recessione, un'altra recessione del mondo in America sarebbe particolarmente grave per lui. Credo che tutti siamo preoccupati per l'Europa, anche Angela Merkel, abbiamo delle visioni magari diverse su come risolverla, ma credo che l'idea che ad Angela Merkel non interessi nulla dell'Europa, che non sia preoccupata, sia un po' così, diciamo, semplicistiche. E se le dicessi invece, sempre in tema di semplicismo, che anche questa volta si rischia, o meglio, l'America rischia di salvare l'Europa dalla Germania? Direi che è semplicistico, io penso che l'America non possa fare molto questa volta per salvare l'Europa dalla Germania, penso che l'Europa si debba salvare da sola, e penso che l'Europa abbia fatto l'euro e abbia fatto un'unione monetaria senza mettere i puntini sulle i su parecchie cose, tra cui il fatto che certi paesi forse non dovevano essere parte dell'unione monetaria, a partire dalla Grecia, c'è stata molta confusione su quella che doveva, sulla l'esistenza o meno di un'unione fiscale e che tipo di unione fiscale, siccome erano problemi difficili, politicamente difficili, sono stati messi sotto l'uscio. Sentiamo adesso un passaggio della conferenza stampa del premier spagnolo Mariano Rajoy tenutasi domenica 10 giugno a Madrid. Ganada la credibilità entre nuestros socios. Ha vinto la credibilità con i nostri partner e con le istituzioni europee e mondiali. Proprio grazie alla credibilità è stato possibile il risultato uscito dalla riunione dell'Eurogruppo. Detto in altro modo, se non avessimo fatto quello che abbiamo fatto in questi ultimi 5 mesi, quello che è successo alla riunione dell'Eurogruppo sarebbe stato un intervento per la Spagna. Ma visto che negli ultimi 5 mesi abbiamo fatto il nostro dovere, all'Eurogruppo è stata decisa l'apertura di una linea di credito per il nostro sistema finanziario. Una linea di credito europea con l'obiettivo di recuperare la solvenza del sistema finanziario spagnolo e avere il credito necessario per la crescita e l'occupazione. Non voglio entrare in un dibattito nominalista. Voglio solo dire che ha vinto la credibilità del progetto europeo, la solidità del nostro sistema finanziario. Ciò che è successo è che l'Europa metterà a disposizione delle società finanziarie spagnole, che lo necessitano, una linea di credito che le stesse società finanziarie dovranno ridare indietro. Io l'unico che quiero decir es que Europa va a poner a disposición de las entidades financieras españoles que no necesiten una línea de crédito que las entidades financieras tendrán que devolver. Come abbiamo potuto ascoltare dalle parole di Rajoy, la Spagna, quarta economia di Eurolandia, ha ceduto alle pressioni dei partner europei e dei mercati e ha chiesto assistenza finanziaria per ricapitalizzare le proprie banche prosciugate dalla bolla immobiliare. La svolta attesa da giorni è arrivata sabato 9 giugno dal ministro dell'economia spagnolo Luis de Guindos al termine di una riunione d'urgenza dei ministri delle finanze della zona euro, nel corso della quale l'Eurogruppo ha messo sul tavolo la disponibilità di un prestito fino a 100 miliardi per il settore del credito spagnolo. L'assistenza è condizionata a misure di risanamento del settore bancario spagnolo, ma non ad un nuovo piano di austerità, così come chiesto dalla Spagna, che ha preteso ed ottenuto solo un ruolo tecnico di sorveglianza per il Fondo Monetario Internazionale, che non parteciperà direttamente al prestito. Gli aiuti saranno erogati dai fondi europei salvastati, EFSF e ESM, e transiteranno verso il Fondo Spagnolo per la ristrutturazione bancaria. Nella giornata di lunedì 11 giugno la notizia è stata inizialmente accolta bene dai mercati, che nel pomeriggio però hanno ripreso a perdere sulle nuove preoccupazioni relative all'Italia, che a questo punto sembra essere rimasta in prima fila fra i paesi cosiddetti periferici che potrebbero necessitare di un piano d'aiuto. Sebastiano Barisoni ne ha parlato con Stefano Manzocchi, professore ordinario di economia internazionale all'Università Luis di Roma. Tutti parlano non di 100 ma almeno di 300 miliardi per ricapitalizzare, per coprire i buchi nelle banche spagnole, i buchi che sono già emersi, perché naturalmente più l'economia spagnola ristagna, più i prezzi delle case rimangono fermi e le case invendute, ci sono 1,5 milioni di abitazioni, di appartamenti invenduti in Spagna, e più... 1,5 milioni. Esatto, e più si aprono voragini nei conti delle banche. Allora, se servono 300 miliardi per ricapitalizzare il sistema bancario spagnolo, i mercati, gli operatori fanno pochi conti e scoprono che ragionevolmente i fondi salvastati e comunque i nuovi strumenti che l'Unione Europea ha in campo oggi certamente non basteranno a coprire anche eventuali problemi delle banche italiane. E questo è il primo motivo. Il secondo motivo è che abbiamo, naturalmente siamo al quarto anno di recessione, con la timida eccezione del 2010, e non si può non rilevare che naturalmente i conti delle banche italiane dipendono dall'andamento dell'economia italiana. Lei ha citato prima le previsioni per quest'anno, quando qualche banca d'affari anglosassone ha cominciato a parlare di meno 2 per l'Italia, la reazione qui da noi è stata di un po' di sussiego, un po' di diego, ma la verità è che sembrerebbe che andiamo in quella direzione. Quindi purtroppo i conti delle banche italiane dipendono in larga parte dall'andamento dell'economia italiana, famiglie che non pagano i mutui, imprese che hanno fatica a rispettare i loro impegni, eccetera, eccetera. Nel Frau Merkel, ossia faccia presto signora Merkel, è l'appello che il Sole 24 Ore lancia in tedesco alla cancelliera tedesca affinché si sbrighi a salvare l'euro dal tracollo. Nell'editoriale, che richiama quel fate presto rivolto ai politici italiani a novembre, il direttore Roberto Napoletano scrive: signora Merkel, così non può andare avanti, non farà molta strada se continuerà ad essere indifferente alla rabbia dei greci, distante dall'orgoglio ferito degli spagnoli, dalle paure italiane e dalle angosce francesi. Quindi il direttore sottolinea che tirare fuori 100 miliardi di euro per difendere le banche spagnole e ritrovarsi con gli spread di Italia e Spagna a livelli vertiginosi è solo l'ultima spia di un allarme rosso che lei si ostina a voler ignorare. Sebastiano Barisoni ha commentato tutto questo proprio con Roberto Napoletano. Sentiamo. Che cosa deve fare in primo luogo la Germania, e quindi portandosi dietro il resto d'Europa? Tu individui 3 punti. Ma il primo punto è una garanzia unica per i depositi bancari a livello europeo. Questo è un punto su cui si sollevano questioni anche morali, che non hanno che hanno anche un fondamento, non sono del tutto infondate, però bisogna avere presente che continuando così paga anche chi ha avuto comportamenti molto molto corretti, quindi c'è una moralità anche in questa scelta. Il secondo punto: bisogna rafforzare il fondo salva stati, che deve poter intervenire direttamente a sostegno degli istituti di credito, e poi c'è questa grande questione, che è quella di mettere insieme i debiti pubblici. È una questione molto importante, non vuol dire che chi ha più debito deve pagare come chi ha meno debito, questo è sbagliato, però non è meno giusto che chi ha commesso degli errori in passato e sta tentando di riparare continui a pagare un prezzo che non merita,